In primo piano. Le 7:33 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vedremo insieme i quotidiani di questa giornata del 21 di marzo, quotidiani molto ricchi anche di spunti di riflessione. Ovviamente il tema principale è ovunque il coronavirus, il Covid-19, quello che sta succedendo in Italia, quello che sta succedendo all'estero e le risposte anche europee, perché come abbiamo sentito anche nel corso di GR24, Bruxelles allenta il patto di stabilità, aiuti senza limiti. Questo è proprio il titolo del Sole 24 Ore di oggi, su cui campeggia una fotografia di New York, dove la performer Ashley Montag balla in una Times Square quasi deserta con una maschera antigas. Lo Stato, si leggiamo nella didascalia, lo Stato governato da Andrew Cuomo è il più colpito dall'emergenza Covid-19. Questa è stata la scelta appunto del Sole 24 Ore. Sulla cui prima pagina leggiamo anche: crescono i contagi e il presidente della Confindustria Boccia dice rilanciamo economia e lavoro. Confindustria lancia un programma per affrontare l'immediato e soprattutto per dare una base solida di ripartenza, ci dice appunto questo articolo. Poi c'è un allarme di cui scrive Jacopo Giliberto: rischio manutenzione per i grandi impianti. In allarme le imprese dei settori industriali strategici, l'attività è a rischio, i tempi prima che comincino a bloccarsi inceneritori di rifiuti o acquedotti si misurano in settimane, non in mesi. Alle aziende in attività non arrivano materie prime o componentistica, ma soprattutto stanno mancando le mascherine protettive per i lavoratori delle manutenzioni, dai saldatori agli addetti alla coibentazione, dai verniciatori agli addetti ai rifiuti. Interi settori stanno lanciando l'allarme. Ed è una questione serissima che appunto va affrontata, perché si tratta di settori strategici, appunto, come leggevamo. Poi c'è un'analisi nelle pagine interne di Beda Romano: il liberismo del nord e l'immunità di gregge. Spero riusciremo a darvene lettura, ma è chiaramente un'analisi, una riflessione su come nord e sud Europa affrontano questa crisi, anche a partire proprio dalla formazione e dal anche da un punto di vista religioso che c'è tra Nord e Sud Europa. Sul Corriere della Sera il titolo: più morti, scontro sui divieti, il governo chiude solo i parchi, regioni e sindaci all'attacco e poco agiamo noi, dicono. Il giorno con il maggior numero di vittime, 627, verso il sia l'ospedale della Fiera. L'esperto dice aumentare i tamponi e di questo appunto si parla diffusamente in molti quotidiani, perché appunto soprattutto per il sud forse il sistema Corea, quindi i tamponi a tappeto, potrebbero funzionare e contenere l'epidemia prima che appunto questa si scateni. Sul Corriere della Sera oggi c'è anche un'intervista al presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il patto di stabilità è sospeso, Italia sì, un esempio meraviglioso. L'Italia sta pagando il prezzo più alto all'emergenza coronavirus, ma l'Europa manda un segnale. Il patto di stabilità è sospeso, dice al Corriere la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Io non permetterò mai che gli egoismi prevalgano. Amici italiani, siete un esempio meraviglioso. Così appunto sul Corriere della Sera, dove, vabbè, come su tutti i quotidiani troverete ricapitolate e schematizzate tutte le misure che sono state varate dal governo, le novità e la stretta appunto, tra le quali anche, come ben sappiamo, quella su coloro che fanno jogging o quelli che devono portare a passeggio il cane. Sul Corriere della Sera, ve ne do lettura subito, in campo anche i medici di Wuhan, e questo lo sappiamo, la cura col plasma di chi è guarito. La delegazione cinese avvia la sperimentazione a San Matteo di Pavia. Molto interessante questo articolo di Cesare Giuzzi e Simona Ravizza. È la terapia studiata al Policlinico San Matteo di Pavia che adesso vede il supporto dei medici cinesi che hanno lavorato sullo stesso protocollo a Wuhan. Ieri una delegazione di 6 medici guidata dal dottor Lu Ming ha incontrato l'equipe di Cesare Perotti, responsabile del servizio di immunematologia del San Matteo, e il presidente Alessandro Venturi. E l'intervista è questa. Dottor Luming, la vostra terapia prevede l'uso del plasma iperimmune da convalescente. Come funziona? Si sfrutta la presenza nel plasma del paziente convalescente di anticorpi specifici diretti contro il Covid-19. Lei e la sua equipa avete lavorato a Wuhan. Su quanti pazienti avete sperimentato questa terapia? Dopo un'iniziale sperimentazione su 10 pazienti abbiamo trattato oltre 1000 malati, con risultati soddisfacenti in soggetti con forme gravi di infezione e a fronte di effetti collaterali legati all'infusione trascurabili. Quali sono i tempi della possibile guarigione del paziente? Si vedono dei risultati positivi a distanza di 24-48 ore. Che cosa accade? In particolare migliora l'ossigenazione, la guarigione legata ad una serie di fattori che sono da valutare sul singolo paziente. È una terapia che può essere adatta a tutti i malati di Covid-19? Questo tipo di terapia può essere adottata per quasi tutte le tipologie di pazienti colpiti dal virus. Al momento non sono emerse controindicazioni all'utilizzo del plasma iperimmune in combinazione con altri tipi di terapie farmacologiche in atto. Questa è poi c'è un appello ovviamente a stare a casa, come hanno già ripetuto più volte i medici che sono arrivati da Wuhan, hanno l'impressione insomma che ci siano ancora troppi individui in circolazione sui mezzi pubblici, nelle città, soprattutto senza mascherine, ma insomma la parte appunto di questa sperimentazione che è già stata fatta in Cina e che adesso si prosegue al Policlinico San Matteo di Pavia mi pareva molto importante da comunicare diciamo subito. Andiamo alla stampa. Lombardia, 1 su 3 muore in ospedale, questo è il titolo che è stato scelto. Allarme coronavirus, nelle ultime 24 ore 627 morti, più di 47.000 positivi, raggi, domani a Roma controlli su ogni auto che circola, così ha annunciato la sindaca. Il governo inasprisce le limitazioni, chiusi parchi, ville e giardini, ma le regioni chiedono ancora di più. Cirio dice, il governatore del Piemonte, siamo al limite, sospeso il patto di stabilità. L'UE apre sugli eurobond e la scuola verso una maturità leggera solo con commissari interni. È leggero anche l'anno che stanno affrontando gli studenti rispetto ovviamente a quello solito da un punto di vista scolastico, pesantissimo ovviamente invece per le condizioni in cui si svolge ovviamente. Sulla stampa c'è anche una riflessione di Marcello Sorgi sul rischio di usare l'esercito, ovviamente tutto per evitare che si propaghi l'epidemia in tutto il paese con la stessa virulenza sperimentata dalla Lombardia e poi dalle regioni limitrofe, ma appunto un aspetto sul quale si dovrebbe ragionare, scrive Sorgi, prima di decidere, è quello appunto dell'utilizzo dell'esercito, perché dopo l'esercito, scrive, non c'è altro. È un esercito con compiti che si sovrappongono a quelli delle forze di polizia, dei vigili urbani e degli operatori sanitari. Rischierebbe di aggiungere ulteriore confusione a quella che ha già stravolto la vita dei cittadini. Oggi come non mai chi ha in mano il potere, specialmente quello assoluto generato dall'emergenza e sostenuto da altissime quote di consenso, dovrebbe adoperarlo con cautela, con grande cautela, riflettere non solo sulle difficoltà, sulle sofferenze, sui lutti che abbiamo sotto gli occhi, ma su quelle che verranno, quando speriamo presto si potranno tirare le somme anche delle conseguenze economiche di questi giorni di paralisi. A quel punto la sorpresa potrebbe essere non soltanto un conto assai più salato di qualsiasi previsione, ma anche un cambiamento repentino di atteggiamento da parte dell'opinione pubblica, che oggi, sentendosi a rischio della vita, è disposta a pagare qualsiasi prezzo, e domani invece, scoprendosi impoverita, sarà pronta a invocare un miracolo, un nuovo governo, magari un uomo della provvidenza che ancora non si intravedono. Così scrive Marcello Sorgi. La Repubblica, Italia spezzata, il titolo a tutto campo. Chiude New York, bloccata tutta la Silicon Valley. L'UE sospende il patto di stabilità, record di morti, 627 in 24 ore, contagi 4.670 nel nostro paese, nel giorno più nero del coronavirus. Prepariamoci, perché il giorno più nero sarà sempre quello successivo, visto che ci avviamo verso il picco. Su Repubblica, ecco, l'approfondimento per l'appunto sull'applicazione del sistema Corea del Sud, a firma di Luca Fraioli, pronti a fare come in Corea. Il confronto con la curva italiana potrebbe indurre a una svolta. Più lo guardo, più mi convinco che dobbiamo seguire la strategia di Seul. Sto proponendo che la si adotti in Italia, dice Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. Più a pagina 6 poi si specifica, diciamo, d'accordo con il ministro sto proponendo che la si adotti anche in Italia la strategia di Seul, abbiamo già attivato un gruppo di studio per definire i dettagli, quindi molti tamponi e l'ausilio della tecnologia per tracciare i contagiati con sintomi anche lievi e le persone con cui erano entrate in contatto. Ognuno dei quasi 9.000 risultati positivi al test è stato spiato, tra virgolette, dalle autorità sanitarie coreane attraverso i suoi dati medici, il GPS dello smartphone, le carte di credito, le telecamere di sorveglianza. Incrociando tutte queste informazioni si sono rintracciate le persone che potevano essere entrate in contatto con Covid-19, le si sono isolate in casa o in ospedale, a seconda delle condizioni di salute e dell'esito del tampone. Non solo, un'app segnalava i luoghi in cui erano stati i soggetti a rischio e così chi aveva frequentato quello stesso luogo poteva sottoporsi volontariamente al test. E questo sistema potrebbe essere utile più che al nord, dove la situazione è già purtroppo a un livello superiore di pericolosità, nel centro-sud Italia per contenere appunto i contagi. Nella pagina a fianco, cioè quindi pagina 7, l'intervista di Liliana Milella a Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale. Vi do nota del titolo: Zagrebelsky, giusti divieti se tutelano il diritto alla vita, non vedo prove di dittatura. L'intervista è lunga, articolata, ma appunto questo è il tema. Noi siamo arrivati al momento della pausa per le informazioni sul traffico e proseguiamo subito dopo. In primo piano. Proseguiamo nella nostra rassegna stampa. Scrivono a diversi ascoltatori: ma come, bisogna fare tamponi a settimane alterne, farli o non farli? È proprio questo il punto. Però appunto i giornali oggi danno vari spunti di riflessione affinché anche come cittadini, insomma, possiamo avere una panorama, diciamo, di opinioni e di riflessioni più ampio e capire cosa sta succedendo e anche l'incertezza, certo, che c'è in questo momento. Andiamo sul Quotidiano Nazionale, perché a proposito di telefonini e di controlli attraverso gli smartphone, si dà conto nell'articolo di Giulia Bonezzi a pagina 5 di quello che succede perlomeno in Lombardia, cioè che succede con il controllo appunto dei cellulari. Ore 17, tutti in strada nella zona protetta, gli spostamenti in Lombardia monitorati con le celle degli smartphone, ci sono picchi anomali anche tra le 12 e le 13, quindi durante il pranzo. Cosa succede? Che alle 5 della sera nella Lombardia, zona protetta, è l'ora di punta, il momento in cui i lombardi si spostano di più nell'arco della giornata in base ai primi dati raccolti dalla regione, che lunedì ha iniziato ad analizzare gli spostamenti di cella degli smartphone con l'aiuto delle compagnie telefoniche e da ieri ha avviato un approfondimento sulle fasce orarie. I primi risultati su un campione pari al 40% dei telefonini lombardi mostrano che alle 17 di mercoledì almeno 176.000 persone si spostavano di almeno 300 metri, il raggio minimo di una cella. Alle 18 erano 174.000, per scendere via via fino a 70.000 alle 22. A mezzanotte c'erano in giro 38.700 lombardi, il minimo si toccava alle 4 del mattino con 14.000 persone. Via via, poi ci sono tutti i dati, sono dati aggregati e anonimizzati alla fonte, perché la regione non può e non vuole, comunque, in base alla normativa sulla privacy, sapere chi ha fatto cosa, ma non è neanche interessata al monitoraggio delle singole SIM. Lo scopo è mettere nelle mani degli epidemiologi un flusso di informazioni da incrociare con quelle relative alla curva dei contagi per misurare l'effetto delle restrizioni applicate alla popolazione sull'evoluzione della epidemia. E comunque appunto già queste rilevazioni sono in atto e sono analizzate. Il Messaggero: virus, la mini stretta non basta, stop ai weekend fuori porta, meno attività nei parchi, governatori in ordine sparso, Gabrielli dice pene più severe. Il balzo, lo sappiamo, dei morti sono 627, mai così tanti in un giorno. Borrelli, picco lontano, ma calano i malati gravi. E poi sempre sulla prima del Messaggero ritroviamo il patto di stabilità sospeso, stop ai vincoli di spesa, l'UE apre ai Covid bond e Roma controlli su tutte le auto, come abbiamo appunto sentito annunciare dalla sindaca Raggi. Fatto Quotidiano, i medici si proteggono con i sacchi dei rifiuti. In Lombardia, altro che sanità modello, lo scandalo di un ospedale di Mantova ha toccato intanto il nuovo record di morti in Italia, 627. Questa la denuncia con una fotografia appunto di un medico paramedico, non so, ricoperto di sacchi tipicamente quelli della spazzatura, sacco nero, ecco, per difendersi e proteggersi dal virus. Cosa vediamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? Le nuove regole, ovviamente, meno sport ma alimentari sempre aperti. Dolomiti, Versilia e Sardegna, gli untori della seconda casa. Assurdo che ci fossero ancora persone che sabato e la domenica così prendevano la macchina e volevano andare alla seconda casa. La psicanalista, poi sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Skype soppianta Freud, i pazienti ora si curano così, quindi online. E poi Corona del Rosario, boom in TV, tutti pazzi per Maria, TV 2000, oltre il 13% di share, il Santo Rosario giovedì sera ha totalizzato la bellezza di 4.221.000 telespettatori. Rosario preceduto da un breve videomessaggio di Papa Francesco realizzato con lo smartphone. Numeri che forse ci stupiscono, però sono persone che ovviamente in questo momento non possono pregare nelle chiese, quindi lo fanno tutti insieme davanti alla TV. Avvenire, stretta sugli spostamenti e l'apertura dell'Europa, sospeso il patto di stabilità, gli stati adesso potranno spendere quanto serve per la crisi. E poi in particolare Avvenire oggi dedica molto spazio a disinnescare, questo è il titolo, in modo sano la bomba virus nelle carceri, ne scrive Glauco Giostra, pagina 3. Gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili. Nell'emergenza di oggi è necessario agire per il bene delle persone coinvolte e di tutta la società, intervenire con criterio sui flussi in entrata e in uscita dagli istituti di pena, quindi rallentare gli ingressi e con misure alternative. Il giornale Conte tentenna. Aumentano morti e contagiati, Lombardia e Veneto chiedono il coprifuoco, il governo non decide, l'Europa congela il patto di stabilità. Poi ancora sempre dalla prima pagina del giornale, il coronavirus spegne anche le luci di New York, Boris Shock, cioè Boris Johnson, chiusi i pub. Stretta su corse e weekend, richiamati altri 300 medici, pusher vestiti da podisti, tar shock, uscire di casa, sì, furbetti e divieti. E poi se ne parla diffusamente nelle pagine interne. Il manifesto, una fotografia di Ursula von der Leyen, giro di vita, l'UE sospende il patto di stabilità, non era mai accaduto, i governi potranno spendere tutte le risorse necessarie per affrontare l'epidemia. Bruxelles e Francoforte aprono i cordoni della borsa e non escludono i corona bond. Sul piatto i 500 miliardi del fondo salva stati da poter usare senza condizioni. E poi il manifesto ci ricorda quello che abbiamo letto anche poco fa, Dio Picco, la tregua si allontana, in Italia oltre 600 vittime, più di 6.000 contagi in 24 ore, venerdì nero anche in Europa. Libero, coraggio, arriverà il vaccino, mentre anche al sud imperversa il virus, i cinesi e americani vanno veloci, partiti i test sugli uomini pur di arrivare a un antidoto entro estate, ma forse tra 3 mesi ci consegneranno un siero gli israeliani, per caso lo stavano già studiando, ne scrive poi Carlo Nicolato che accusa in sostanza l'OMS, l'agenzia dell'ONU, di lentezza, perché dice non brilla per intraprendenza, i tempi per arrivare a un vaccino efficace utilizzabile contro il coronavirus per l'OMS si aggirano attorno ai 18 mesi. Per gli scienziati di tutto il mondo che da diverse settimane sono al lavoro per trovarne uno, i tempi, scrive sempre Nicolato, potrebbero essere più brevi considerevolmente. Ci sono ricercatori cinesi e americani all'opera e via dicendo. Ovviamente poi ci sono i tempi della sperimentazione sull'essere umano, comunque da tenere ben presenti prima di poter vaccinare la popolazione mondiale. Altro che ridurre gli orari, supermercati aperti sempre, questo è il titolo della Verità. Nuovo record di morti in un giorno, 627, balzo di contagiati al sud. Le voci sulle chiusure anticipate fanno scattare la corsa al carrello. Bisogna evitare gli affollamenti? Allora sia possibile fare la spesa anche di notte, propone la Verità. I market in questo modo offrirebbero pure qualche posto di lavoro. Poi ancora Conte approfitta del virus per venderci, storico, l'UE ferma il patto di stabilità ma Giuseppe insiste sul MES malgrado il no di Movimento 5 Stelle e opposizione. Andiamo al secolo XIX che oltre alla fotografia in prima pagina del primo ospedale da campo realizzato in Lombardia dalla ONG americana Samaritan's Purse all'ospedale di Cremona pone questo titolo, parchi chiusi, sport solo sotto casa. Alcune regioni però chiedono di più. Dal Piemonte, oggi la Costa Luminosa a Savona, rebus della quarantena per 1500 persone. Questa è l'odissea appunto dei passeggeri della Costa Luminosa che ormai da quasi un mese sono in mare e sono in arrivo al porto di Savona. Ci si domanda ovviamente come affrontare la situazione, cosa fare dei passeggeri italiani, possono essere riaccompagnati personalmente a casa e posti in quarantena, ma i passeggeri stranieri vivono una situazione di difficoltà ulteriore. Chiaramente chi li accompagnerà a casa o chi li accoglierà, dove li verranno accolti? Ovviamente dopo tutti i controlli sanitari. Si tratta di centinaia di persone, quindi la questione è difficile, assai difficile da risolvere. Non abbiamo altri minuti a disposizione, solo secondi per ricordarvi appunto l'intervista a Ursula von der Leyen sul Corriere della Sera in cui si parla ovviamente del patto di stabilità sospeso, ma si parla anche della necessità di porre fine agli egoismi e a tutti i costi evitare la frattura tra nord e sud Europa. Non lo permetterò mai, dice la von der Leyen. Capisco che i governi debbano rallentare la diffusione, ma dobbiamo tenere il mercato unico il più possibile operativo e fluido. Ci fermiamo qui, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.